sexy lady. Foxy Lady, la nostra Foxy Lady, come sapete benissimo tutti voi passerottini e passerottine, la nostra Cherie, e vi prometto che prima o poi la convincerò a farvi un saluto qui dai microfoni dell'Early Bird Special. Early Bird Special, la sua ricetta, una tazza di caffè nero bollente per il vecchio Chucky Boy, buona musica per tutti e qualche fregnaccia per chi ha voglia di ascoltarla. Come quella volta che i quattro ragazzi di Athens, Georgia, decisero di mettere insieme una band per suonare alle feste. Tutti i dettagli dopo i Kings. La la la la la la. I met her in the club down in Otoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Lola, Lola, Lola, Lola. Well, I'm me that I wanted to stay, and I always wanted to be that way for my Lola. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my Lola. La la la la la. Kinks, spesso e volentieri ospiti qui all'Early Bird Special, ma non è dei Kinks che vi voglio parlare questa mattina, ma di Michael Stipe, il cantante dei Ram. I primi ricordi musicali di Michael Stipe risalgono al tempo in cui viveva in Texas e riguardano uno spettrale teschio di bue di nome Clyde che stava appoggiato sopra un vecchio pianoforte in camera sua. Beh, una volta Mike si svegliò di notte e il piano, ma soprattutto il bue, erano lì, come se lo stessero fissando. Questa specie di incubo ad occhi aperti ha tenuto lontano Michael Stipe dalla musica fino all'età di 18 anni, quando, ispirato dal punk e da un nuovo amico che lo aveva invitato a cantare in una chiesa, lo aiutarono a superare le sue paure. Era il 1980 e quel nuovo amico si chiamava Peter Buck, che viveva in una vecchia chiesa episcopale in Oconee Street ad Athens, in Georgia. La chiesa aveva un'atmosfera fantastica, era molto spaziosa e perfetta per le feste. Buck, tanto per divertirsi, decise di formare un gruppo e suonare lì dentro. Lui suonava la chitarra elettrica e chiese a Stipe di cantare. Invitò anche Bill Berry a suonare la batteria e Mike Mills il basso. Impararono molti pezzi degli anni 60, che allora erano considerati fuori moda, e la cosa li mise in grado di spadroneggiare la struttura della canzone pop, conoscenza che poi applicarono alla propria musica. Questo gruppo di quattro amici decise di battezzarsi RAM, Rapid Eye Movement. Talk about the government.

Me for Early Beer Special, questa Crazy in versione acustica. Molti per strada mi chiedono: Chuck, io volevo raccontarti la mia storia di rock and roll, ho visto un concerto fighissimo, o semplicemente mi è venuta in mente una notiziola che secondo me all'Early Beer Special ci sta come il cacio sui maccheroni, ancora meglio come lo zucchero nel caffè. Ebbene, potete farlo digitando sulla vostra tastierina bird@radiorockfm.com. Non sarò io a rispondere direttamente, ma Sherry che mi stamperà le vostre lettere, che leggerò naturalmente in diretta. Led Zeppelin, so che vi piacciono e per questo li ho scelti per voi. Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. Black Dog, Led Zeppelin. Sherry, è stato un lunedì veramente faticoso. L'inizio della settimana, ragazzi miei, è dura anche per il vecchio Chuck Bird, che ne ha viste di cotte e di crude. Ma al momento è riuscito ad arrivare in fondo a questo Early Bird Special. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con i rimanenti programmi qui da Rock FM, nella fattispecie con il grande DJ Ariel e Freak Anthony con pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto, ci risentiamo domani mattina, sempre dalle 6 alle 7. Early Bird Special. Aloha!